Stagione 3 Teatri per te 2025, giovedì 16 gennaio alle ore 21 si comincia con uno spettacolo che vede protagonista Francesco Pannofino, che è qua al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto su Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Andiamo in approfondimento sul chi è Io, che è una commedia anche complessa, che sfuma diversi piani narrativi, parliamo di reale e di metafisico, di funzione mediatica. Quali sono state le sfide maggiori nell'interpretare un testo così articolato? Intanto volevo fare un testo un po' che approfondisse un po' alcuni aspetti del nostro essere vivi, in qualche modo, e Angelo Longoni è un autore abbastanza sensibile a questi argomenti, ma mi ha proposto questo testo. E io l'ho proposto a Marco Balsamo, dell'impresario, perché senza soldi non si fa niente, e quindi lui l'ha accettato e ecco qui, è già la seconda stagione che siamo in giro. Per quanto riguarda lo spettacolo, è uno spettacolo molto originale, devo dire che sono contento di averlo fatto, di farlo, perché dunque intanto c'è una premessa da fare, è la storia, tutto ruota intorno a uno psichiatra, al dottor Leo Maier, che a un certo punto della sua vita in riva al mare si trova costretto a soccorrere un malcapitato che sta annegando in mezzo al mare agitato, si butta e da lì parte il delirio della sua mente. Si rivede immerso in un show televisivo abbastanza strampalato, dove lui va per presentare il suo libro, ma si trova molto a disagio. Poi si vede proiettato nelle sue sedute psichiatriche con i suoi pazienti, ma è inconsapevole naturalmente che davanti a lui ci sono la moglie, il figlio e la sua amante. Insomma, è tutto sì, e poi dipana nella seconda parte dello spettacolo, in cui appunto vediamo quest'uomo alle prese insomma, con un malessere, eccetera. Però non mancano momenti di hilarità, perché c'è molta ironia nel testo, soprattutto nelle sedute psichiatriche. Però insomma l'intento è quello di invitare il pubblico alla riflessione, in quanto che ognuno di loro si può ritrovare sicuramente, immedesimare nelle varie fasi dello spettacolo. Devo dire che l'esperimento è riuscito, perché alla fine dello spettacolo c'è sempre un drappello di persone che ci aspetta, e alcuni, molti per fare le foto, ma alcuni per anche parlare dello spettacolo, e poi magari li trovi a cena al ristorante vicino che ancora parlano dello spettacolo, cioè quindi vuol dire che scatena anche un dibattito. Ha lasciato traccia, indubbiamente. Questo sì. Intellettuale protagonista, che è invischiato in un programma televisivo discutibile ed è riflessione dell'intellettuale, ma anche in senso più ampio dell'artista, in relazione al panorama mediatico attuale. Questa può essere anche un'altra tematica di discussione. Sì, perché essendo il panorama così vasto e così pieno di offerte televisive, mai come adesso, cioè comunque aumentano anche, no? Io quando ero ragazzino c'era un canale solo, cioè vedevi quello. Certo. Prima ancora non c'era proprio la televisione, quindi. Però voglio dire, è chiaro che ci sono, non tu, cioè qualcosa di buono c'è, però insomma noi sentiamo anche di fare una piccola satira verso la televisione un po' trash, quella dove si parla magari di un bambino morto accidentalmente e poi parte la pubblicità del materasso, cioè non. Sì, ci sono contraddizioni evidenti in tutto questo. Esatto, però più che altro appunto serve il nostro spettacolo anche per far conoscere meglio noi stessi, ammesso che uno ne abbia voglia, perché c'è gente che dice no, io me stesso non lo voglio conoscere. E questo crea uno spaesamento che potrebbe essere, diciamo, un po' il filo conduttore e la motivazione per cui questa commedia parla di tutti noi, Francesco. Beh certo, parla di tutti noi, ognuno degli spettatori nella sua mente ha vissuto, sta per vivere o vivrà momenti di difficoltà, di disagio, purtroppo la vita non è tutta un'autostrada sgomba, ci sono ostacoli, difficoltà, dolori, alcune volte ci riproponiamo da soli, altri invece arrivano. Quindi bisogna, insomma, tentiamo di affrontare l'esistenza insomma poi a 360 gradi, però lo spettacolo poi tra l'altro per parlare di queste cose ci vorrebbero settimane, lo spettacolo è anche breve, dura poco meno di un'ora e mezza, e quindi non... Certo. Indolore, diciamo. E non solo, indubbiamente, per crescere grazie al teatro che ci fa pensare. Il teatro è un ottimo mezzo di comunicazione, purtroppo si rivolge solo agli spettatori che c'entrano fisicamente, però il teatro è una bellissima emozione per chi lo fa e per chi lo vede. E con Radio Città Fuji, con la rubrica In Scena, ne diamo possibilità di informazione. È giovedì 16 gennaio, ore 21, a Crevalcore, Auditorium 1 maggio, Viale Caduti di Via Fani 300. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata e ti aspettiamo. Grazie. Grazie a te, buon lavoro. Ciao.